Aspetto Francesca da Andrea di Torino, si prepara Castino Beppe, Alessandria. Buongiorno a tutti, scusate, io nella relazione di Rosina, questa volta ho visto che l'Antes è stata almeno nominata e incensita un po', e non ultima, perché se vogliamo lavorare assieme, tutti quelli che sono venuti qui a parlare hanno parlato solo esclusivamente di sindacato e qualcuno dell'Antes. Noi siamo nel territorio, dove non può arrivare il sindacato, molte volte le porte sono aperte per l'Antes. Adesso noi a Torino stiamo finendo un progetto che sono le antenne sociali. Abbiamo preso un piccolo pezzo di territorio, siamo andati a cercare tutte le associazioni che ci sono lì dentro, ne abbiamo parlato, abbiamo fatto dei piccoli protocolli di intesa e ci siamo messi in rete con loro. Perché non è che possiamo l'Antes avere un psicologo, questo, quello, quell'altro. Cerchiamo di lavorare con le cose che ci sono già, facendo una rete per tutti. Diciamo che noi vogliamo lavorare sempre con la CINS, che noi da sempre, veramente Torino non abbiamo avuto questi problemi, con la CINS e con la FNP. Ma perché siamo una famiglia? Dove arriviamo? Io arrivo da una stazione CINS da mio padre da secoli, quindi questa cosa ce l'ho nella testa. Però vuol dire, se la CINS e l'FNP hanno creato l'Antes, che è il nostro volontariato, ci sarà un motivo, perché vogliamo essere più vicini alle persone. E un'altra cosa, se vogliamo cambiare e vogliamo essere in mezzo alla gente, non dobbiamo più stare chiusi dentro gli uffici, dobbiamo andare nei territori, nelle nostre zone, parlare dove ci sono i circoli, gli spazi degli anziani, la gente ci aspetta lì. Facciamo anche delle feste, non solo delle cose tragiche, ma è lì che la gente ci vuol vedere. Perché se quando vengono negli uffici è perché hanno già bisogno di qualcosa e ci sono tanti che possono dare delle informazioni, mentre se tu vai nel territorio la gente ti conosce e magari se ha qualcosa da dirti è più facile che te lo dica mentre ti trova, non quando devi venire per forza dentro a una sede. Io questo penso che sia anche un'innovazione, un modo diverso di conoscere bene il territorio. Guardate che noi queste antenne sociali, questo piccolo che non è nato la circoscrizione, e come una volta si chiamavano i quartieri, abbiamo trovato delle cose incredibili lì dentro. È vero che c'è il problema di soldi, di tutto, ma sapete qual è il problema più grosso? La solitudine. Gente chiusa nelle case che non esce e non riesce a contattare altre persone. Perché si sentono soli, gli uomini escono un po' di più, magari vanno a giocare a carte. Le donne che per una vita hanno lavorato, cresciuto i figli, cresciuti i nipoti, quando hanno finito questo circolo sono da sole in casa. È lì che bisogna riuscire a entrare dentro e a portare il nostro sorriso, le nostre cose, le nostre competenze, ma ti aprono il cuore quando uno va a parlare. Io volevo dire solo questo, perché non sono una chiacchierona, mi piace fare i fatti, però volevo che conosceste bene l'Antes e tutti i territori stanno lavorando bene, quindi ogni tanto ricordatevi anche dell'Antes. Grazie, brava.